quest'ora il QRM proprio quasi sparisce, capito? Proprio in questa fascia oraria, poi riprende più tardi. Capo Marco, ho cambiato il radio, cosa stavi dicendo, scusa? Stavo notando che in questa fascia oraria il QRM mi sparisce quasi del tutto, praticamente del tutto. Tant'è che ho detto, ma antenna Vinè, ieri questo, no? Proprio la lancetta rimaneva a zero quasi. E invece poi era tutto a posto, antenna a posto. E campa. E adesso sto per cenarmi. E mi sto accendendo la TV che ci sono tre film interessanti. La verità, non ne ho. Non ho QRM io, la verità ti dico. Non ne ho. Zero. Secondo me sono quelli degli altri paesi che ci portano, pure in effetti QRM non viene mai. La verità, guarda, c'è un basso basso. No, qua è diverso. Qua è diverso. Qua quando va bene c'è Santiago 3. Anche col K era così, me lo ricordo. E poi invece tra ieri e oggi a quest'ora sparisce. Tipo anche dalle 8 in poi, no? Fosse sempre così sarebbe meglio. E stasera mi devo scegliere il film. Ci sono tre film interessanti, un po', vabbè, certi sono terra a terra. Uno è Conan il distruttore, quello con Schwarzenegger. Poi c'è La guerra dei mondi, così mentre c'è non me lo guardo. Oppure c'è Basic Instinct, cioè, ti ricordi con quella bonazza di Sharon Stone, un film del 92. Tu guarda sempre quelli sexy, almeno stanotte sei a posto. No, forse guarderò La guerra dei mondi, mi piace molto la fantascienza, così, fantasy. E va bene, e così dai, sono andato per salutare. Poi ci sentiamo quando capita, ok? Comunque ti sento bene, anche di radio. C'è un grido che mi intendi bene già. Scappa. Il segnale è sempre lo stesso, sì. Sì, qua anche un varia poco, cioè non ti puoi accorgere delle differenze dentro la città. Ecco qua. Sì, sta andando bene la modulazione. Che baracchino è e che microfono è anche? Allora, 48 con il MB4. Niente di speciale. Sì, comunque l'MB4 lavora sempre bene. Lavora bene con molti apparati. E poi non devi scegliere il tono, è abbastanza bilanciato con tutti gli apparati. Invece ho notato che io ho l'MB+5, che peraltro è fermo da mesi, che in base all'apparato a cui lo collego, in certi apparati devi mettere il tono a tipo 3-3,5, in certi apparati addirittura lo devi abbassare a 2, perché sennò risulta acuta. Io ce ne ho anche ne ho uno e ne ho più 5, lo sai. Ne ho uno. Però diciamo anche le mie più 4 a posto, ma l'ho dato, mi sono tenuto più 5 e mi sono tenuto, forse ho fatto uno sbaglio, forse. Guarda, in realtà vanno bene entrambi. Diciamo con la regolazione di tono magari lo puoi ottimizzare in base all'apparato, perché tanto se lo alzi già a metà ti fa una modulazione troppo fina. Anzi, domani se entro in radio lo pulisco un po', perché tanto anche se lo tieni al chiuso o vedo che la polvere entra dappertutto, lo pulisco un pochino dalla polvere e lo collego, vediamo anche se la batteria è carica. Adesso sono i fornelli, ti devo lasciare. Buon proseguimento, buon tutto, ci sentiamo. Ciao Marco. Ciao, ci sentiamo. Ciao.